el alba quando spunta il sole, l'anella Abruzzo tutto do, le prosperose campagnole discendono le valli in fior. Delle valli tutte in fior, se canti la tua voce è un'armonia di pace che si diffonde. Dice: se vuoi vivere felice devi vivere quassù. È un'armonia di pace.